La ragione lo dice la parola stessa, cioè il popolo è fuori, dalla politica. Sì, certo, ci sono quei cittadini che votano, ma gli interessi veri del popolo sfruttato, che quelli che a noi interessano, sono fuori dalla politica, non ci sono. La politica parla di tasse, di imprese, di mercato, noi parliamo di lavoratori precari, di drammi, di persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, di sfruttamento nelle fabbriche, di incidenti e drammi sul lavoro, di tagli alla sanità, cioè questo non c'è più in politica, è considerato ormai acquisito, è passato in cavalleria, come si dice. Noi pensiamo che invece questa cosa qui vada riportata dentro la politica, il dramma del popolo sfruttato, la condizione del popolo sfruttato. E per fare questo abbiamo costruito questa lista, che è una lista fatta in gran parte di persone che tutti i giorni su questi temi, in un modo o nell'altro, o perché ne sono vittime, o perché ci cercano di ribellarsi, o perché fanno parte di storie, di movimenti, di lotte, di esperienze, abbiamo cercato di costruire una lista appunto di persone che non accettano che il popolo continui a essere semplicemente sfruttato. Quindi vi proponete come alternativa alla sinistra che c'è in questo momento? A tutti, non solo alla sinistra, a tutti ovviamente. Noi ci proponiamo come alternativa, nel senso che io parlo per me, io a queste elezioni onestamente non avrei lasciato scheda bianca, perché onestamente al di là di tutte le polemiche, noi siamo abituati a un teatrino della politica totalmente rissoso, no? Cioè in cui se ne dicono tutti di tutti i colori in televisione, tu sei fatto questo. Poi se uno va a vedere i programmi, più o meno tutti uguali. Sì, tutti fanno. Sono tutti un po' democristiani durante la campagna elettorale, perché sono tutti democristiani, perché tutti promettono, e poi sono tutti invece banchieri e liberali autoritari finita la campagna elettorale, perché a quel punto tutti scoprono che bisogna fare i conti, rispettare i conti, i vincoli, eccetera eccetera. Ecco, noi questa cosa qui appunto, che è degenerata nel nostro paese, ha portato al fatto che metà della popolazione non voti e non si esprima, e che il gioco politico ormai sia affidato a metà della popolazione. Ecco, questo è un segno, cioè questa non è più una democrazia. Noi siamo un paese dove ci sono alcune forze che fingono di rappresentare differenze interessi, ma che poi alla fine dicono tutte le stesse cose. Il concreto, quali sono le proposte per il lavoro, l'inquinamento di cui ha parlato e l'immigrazione? Concreto, intanto noi siamo per cancellare totalmente tutte le leggi che fatte questi anni, ultimo è Job Act, ma le leggi fatte che hanno precarizzato il lavoro, perché non bisogna mai dimenticare che questa catastrofe della precarizzazione del lavoro non è frutto solo del mercato, è frutto di leggi precise che hanno autorizzato le aziende a fare cose che prima non potevano e non dovevano fare, cioè il lavoro gratis, il lavoro a chiamata, lavori di un'ora alla settimana che vengono considerati occupazione. Ecco, cioè tutto questo va rimesso in discussione. Secondo, noi pensiamo che bisogna ripristinare una parola che è diventata quasi tabù, cioè l'intervento pubblico e dello Stato nell'economia. Se non c'è l'intervento, affidandosi solo al mercato, alle multinazionali, eccetera, com'è la politica di oggi, oppure alla detassazione, cioè, no, noi diciamo intervento pubblico, siamo gli unici a dirlo, intervento pubblico dello Stato nell'economia, perché il mercato ci ha portato a 3 milioni di disoccupati ufficiali e a 3 milioni di finti occupati, che sono quelli che fanno i lavori precari, più 10 milioni di poveri. Ecco, questo è il mercato. Quindi noi siamo contro l'idea che bisogna agevolare il mercato, perché se si fa una buona politica di mercato, alla fine il mercato ci risolve i problemi. Non è così. Un grande intervento pubblico nell'economia per creare lavoro. Noi siamo contro le grandi opere, quelle inquinanti, eccetera, ma pensiamo che ad esempio si potrebbero fare milioni di piccole opere. C'è un paese da ricostruire, da risanare, beni economici, culturali, ambientali. Noi stiamo assistendo a catastrofi continue. Adesso in questo momento c'è uno strage ferroviario a Milano, quindi siamo di fronte al fatto chiaramente che c'è un'incuria generale, perché nasce dal fatto che le risorse vengono concentrate solo per alcuni affari, per alcune grandi opere. Ecco, noi pensiamo che se si ricostruisce un paese più vero, più civile, eccetera, c'è posti di lavoro per tante persone, quindi si può lottare contro la disoccupazione. Infine, noi pensiamo che bisogna puntare davvero sul futuro, sull'istruzione, sulla formazione, e questo bisogna che ridiventi gratuita, perché non lo è, non solo l'università. È dalla terza media che l'istruzione non è gratuita, e spesso nemmeno in terza media. Quindi noi siamo per un gigantesco piano per il diritto allo studio e alla formazione per i giovani, perché penso che questo sia il futuro poi da affrontare. E ovviamente eliminare il lavoro gratis, che oggi è una delle piaghe del lavoro giovanile, anche nella scuola, con l'alternanza scuola-lavoro.